Italia in controluce. Buongiorno da Anna Migliorati, le storie che raccontano il nostro paese e i suoi protagonisti. Questa è la nostra Italia in controluce. Da oggi dovevano restare senza pasti, in stanze sporche e senza cambio di biancheria. Parliamo dei terremotati dell'Aquila, che non vivono nei prefabbricati né nelle tendopoli, ma sono ospitati negli alberghi sulla costa. Una permanenza che doveva durare poco, ma che ancora prosegue e che lo Stato non sta pagando. Che succede? La protesta degli albergatori è rientrata, ma solo rinviata, ce lo racconta Roberta Pellegatta. Da domani saranno sospesi i servizi perché aspettiamo ancora il saldo delle fatture. Noi siamo fermi ad ottobre 2009. Precisiamo una cosa, noi non vogliamo cacciare via nessuno, però siamo costretti a fare questo, altrimenti dobbiamo chiudere le strutture. Così assicurava ieri Maurizio Mucciarelli, uno degli albergatori che avevano aderito all'ultimatum annunciato sempre ieri da Federalberghi L'Aquila. La vicepresidente Mara Quaglianni nel comunicato scriveva: da domani ci vediamo costretti a sospendere i servizi di pulizia, cambio biancheria e ristorazione agli ospiti sfollati del terremoto, perché ad oggi non risultano ancora pervenuti pagamenti delle nostre spettanze. Un annuncio che aveva suscitato la dura risposta del presidente della regione Abruzzo e commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi. Perché dovrebbero sospenderli? Sarebbe un atto, diciamo così, di scarsa sensibilità anche nei confronti dei loro concittadini, no? Perché stanno, comunque non devono dimenticare mai che hanno persone dell'Aquila lì. Noi stiamo pagando, abbiamo anche oggi firmato 2,5 milioni di euro di corrispettivi proprio per gli albergatori aquilani, che peraltro hanno anche delle mensilità più avanzate rispetto agli altri, cioè noi abbiamo trattato anche con un occhio di riguardo proprio gli albergatori aquilani, che sono un po' meglio, ecco, come posso dire, remunerati non in termini di corrispettivi ma di velocità dei pagamenti. Quindi voi non siete in ritardo nel pagamento delle spettanze? Siamo stati in ritardo, adesso stiamo accelerando moltissimo perché sono arrivati i fondi disponibili. La cosa strana è che si lamentano non tutti gli albergatori aquilani, ma solo quelli aderenti ad una categoria. Intendono ottenere condizioni diverse da quelle concordate, a suo parere. Ecco, vede, probabilmente è proprio lì tutta la storia. Ma se fosse solo quello sarebbe disdicevole, ma comunque, diciamo, comprensibile dal punto di vista commerciale. Non vorrei che ci fosse qualcosa che invece ha a che fare con la politica. Oggi la replica della vicepresidente di Federalberghi L'Aquila, Mara Quaglianni. Il governatore Chiodi è stato molto duro, per il semplice motivo che non facciamo leva sul disagio dei terremotati per avere condizioni diverse, perché noi abbiamo accettato le condizioni che ci hanno imposto loro. Sapevamo che i pagamenti sarebbero avvenuti a 90 giorni, data fattura. Adesso ci ritroviamo con un ritardo di 270 giorni. Sicuramente la protesta in questo momento la sospenderemo, perché secondo quello che c'è scritto avrebbero pagato il mese di febbraio, che ancora non sappiamo se è vero perché ancora non riceviamo nulla. Però una cosa che noi chiediamo al governatore è un incontro per poter programmare le date dei pagamenti. La sospensione dei servizi non è ancora scattata, ovviamente. No, stamattina hanno già fatto tutti quanti colazione. Scatta anche lo scrupolo morale, cioè il governatore Chiodi ha detto che loro hanno subito questo problema, ma anche noi albergatori siamo terremotati. I pagamenti sono 9 mesi che tardano. Come mai? Allora, non diciamo che protestiamo soltanto noi. Non ci dimentichiamo che a giugno 2009 gli albergatori della costa hanno minacciato le proteste anche loro. Noi non facciamo politica perché noi stiamo qua per lavorare, perché tra parentesi dobbiamo pagare i dipendenti, i collaboratori che abbiamo. C'è la possibilità che voi riprendiate questa protesta? Sicuramente sì. Sicuramente sì, se questo signore continua a non riceverci, perché noi dal 13 agosto che abbiamo cominciato con le proteste, che poi ovviamente non abbiamo mantenuto, ma dal 13 agosto che non riusciamo a prendere un appuntamento col governatore Chiodi. Allora, se lui si degna questa volta di riceverci e di sederci a un tavolo dove noi decidiamo le date di rientro, le date dei pagamenti per gli albergatori, allora noi non faremo nessuna protesta. Ma non è possibile che ogni mese dobbiamo minacciare una protesta per avere quello che ci spetta di diritto. Italia in controluce. C'è un'altra protesta che in questi giorni sta bloccando le nostre città e soprattutto le nostre università. I ricercatori sono in mobilitazione contro la riforma voluta dal ministro Gelmini. Che succede insomma nel mondo universitario italiano? È andata a chiederlo ai protagonisti Alessandra Schepisi. La città!